24 mattino di Alessandro Milan. Ci siamo anche oggi, le 7:19 minuti, cari ascoltatori, buongiorno. È tornato anche il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Siamo anche su Facebook, ci trovate così, 24 mattino, e su Twitter, @24mattino. Ci sono anche io su Twitter, se volete, @AlinoMilan. Ogni tanto scrivo qualche castroneria, i miei pensieri, andate lì se volete. Allora, eccoci qua, parleremo di revisione della spesa, quell'odiosa spending review di cui si parla tanto oggi, perché è un momento di tagliare. Alla Camera hanno tagliato anche il ristorante, avremo ospite il questore Antonio Mazzocchi della Camera, uno dei tre questori parlamentari. Arriverà la mensa aziendale in Parlamento. Parleremo di questo, tagli che si fanno, tagli che ci sono, tagli che vorreste. Ne parliamo più avanti, come al solito. Ora andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Questo martedì 12 giugno, intanto uno sguardo ai titoli subito. Vi segnalo la prima pagina del Sole 24 Ore, che esce oggi con una foto di Angela Merkel, la cancelliera tedesca, e un titolo a tutta pagina: Schnell Frau Merkel, cioè faccia presto signora Merkel. Un invito, un appello, con anche il direttore Roberto Napoletano, che fa un editoriale che poi vedremo, di appello proprio alla cancelliera tedesca. Beh, la situazione dei mercati finanziari con l'Italia sotto attenzione prende tutte le prime pagine per il Corriere della Sera. Mercati, tensione sull'Italia, Repubblica, giù le borse, Italia nel mirino. La Stampa, crisi, l'Italia finisce sotto tiro. Il Giornale, la medicina non funziona. Per il Messaggero, mercati, Italia sotto tiro. Avvenire, l'Italia nel mirino della speculazione. E poi il tema esodati, per il Fatto Quotidiano, gli esodati sono 390.000, perché la Fornero ha mentito? Libero, esodiamo Monti, e l'Unità, esodati, la bugia di Fornero. Anche il Manifesto, 390.200, gli esodati, ma Fornero resiste. Insomma, questo tema anche sulle prime pagine. Tanta economia, tanta finanza, situazione difficile con l'Italia sotto tiro, ovviamente dopo la Spagna e gli aiuti promessi, i 100 miliardi quasi per salvare la Spagna, anche se la Spagna non vuole sentir parlare di salvataggio. Prima però voglio partire da che cosa? Ecco, tagli che ci saranno, tagli che verranno, tagli che vorreste e che forse non verranno mai. Oggi Gian Antonio Stella, in prima pagina del Corriere della Sera, racconta la vicenda dell'Assemblea regionale siciliana, l'incredibile vicenda dei finti tagli siciliani. Allora, la Regione Sicilia ha deciso di abbassare da 90 a 70, decisione definitiva dalla prossima legislatura, il numero dei propri deputati. Lì si chiamano così, deputati, non consiglieri regionali. Ebbene, però, scrive Stella, puzza di marcio la decisione della giunta siciliana di andare, tra gli evviva della destra, alle elezioni anticipate. Il guadagno di pochi mesi sulla scadenza naturale, infatti, farebbe saltare l'unica vera riforma della legislatura, il taglio sbandierato come una svolta epocale dei parlamentari. Ebbene sì, cioè succede questo, andranno probabilmente alle elezioni anticipate in Sicilia e questo farebbe saltare il taglio dei parlamentari che sarà dalla prossima legislatura. Scrive poi Gian Antonio Stella all'interno: la Sicilia, il voto anticipato che salva le poltrone, i seggi dovevano scendere da 90 a 70, ma si è deciso di andare alle elezioni anticipate. E allora scrive Stella, fa ridere leggere i comunicati di quando decisero di tagliarsi i parlamentari. La Sicilia anticipa i tempi della politica nazionale, l'Assemblea regionale ha dato vita a un'importante autoriforma, o il presidente dell'Assemblea, Cascio, non si è mai visto in Europa un Parlamento che vota la riduzione dei deputati, risparmieremo 35 milioni di euro. Ma ecco che il 18 aprile 2012 il Senato dà il primo dei quattro ok parlamentari per il taglio. E allora tutti a terrore, vuoi vedere che stavolta il taglio passa sul serio? Lo stesso giorno, 4 ore dopo le notizie sul voto del Senato, esce un'ANSA Secondo il governatore Raffaele Lombardo, se si votasse insieme in Italia e nell'isola nel 2013, le alleanze nazionali annichilirebbero ogni possibilità di scelta o di intesa da costruire in Sicilia. E dunque bisogna andare alle elezioni anticipate. Risultato, le elezioni anticipate faranno scattare il blocco, perché si voterà prima del 2013 e quindi con la vecchia normativa, e quindi ancora eleggendo 90 parlamentari deputati all'Assemblea regionale siciliana. Il taglio dei parlamentari? Ciao! Così si conclude l'articolo di Gian Antonio Stella. Dunque, se la Sicilia andrà a votare prima della scadenza naturale, pochi mesi prima della scadenza naturale, salterebbe l'unica vera riforma della legislatura annunciata nel dicembre 2011. Il taglio dei parlamentari, rimarrebbero 90. Evviva! Voglio raccontarvi la storia che dà spunto a tanti commenti sui giornali e che riguarda una scuola elementare di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, dove che cosa è successo? È successo che 5 bambini delle elementari sono stati bocciati, delle elementari, prima elementare, neanche delle elementari, in prima elementare, 5 bambini. Una vicenda che è una vicenda non solo di cronaca, è una vicenda che ha dato e dà spunto a moltissimi commentatori ora di fare delle analisi. Ma davvero una scuola che boccia a 6 anni in prima elementare, qualunque sia il grado di apprendimento del bambino, non stiamo a discutere, tra l'altro uno dei bambini è anche disabile, 3 sono stranieri, presumibilmente non conoscono neanche i rudimenti della lingua, non sono alfabetizzati abbastanza, magari sono qui in Italia da poco. Al di là del fatto di cronaca, è giusta una scuola che boccia a 6 anni, che ferma un bambino in prima elementare? Il caso di 5 bambini in prima elementare sul Corriere della Sera, la scuola che boccia 6 anni, a pagina 26. Ma poi ci sono tanti commenti. Giordano Bruno Guerri, per esempio, sul giornale: bocciare i bimbi di 6 anni, orrore. Lo trovate a pagina 17. Cos'hai, Nicola? Dimmi che ti succede. Inizia così Bruno Guerri: ho faticato parecchio a ottenere una risposta qualche giorno fa dal maggiore dei miei figli, 5 anni e mezzo. Ero andato a prendere la scuola, ultimo anno delle materne. L'avevo trovato incupito, ai limiti del pianto, e poi a casa svogliato, chiuso in sé, con l'espressione tragicissima di un bambino che non vede un futuro davanti a sé. Finalmente poi mi ha detto: nella partitella di calcio mi hanno messo in panchina. Non occorre essere un pedagogista per capire che il suo dramma vero non veniva dalla privazione del gioco, ma dall'essere giudicato inferiore agli altri. Inferiore, una tragedia nella mente di un bambino ancora incerto sulle proprie capacità. E allora come si potrà confortare un bambino bocciato in prima elementare? In prima elementare significa che il piccolo fa il suo ingresso nel mondo degli adulti, questa è la scuola, con un ceffone. Gli viene detto che non è abbastanza bravo in quella cosa che gli hanno spiegato essere la più importante. Significa che rimarrà in quella scuola, ma coi bambini più piccoli, mentre i suoi compagni abituali, ormai una classe avanti, lo prenderanno in giro per sempre. Che neppure i suoi genitori sono in grado di proteggerlo da una decisione tanto grave degli insegnanti. Che quindi i genitori sono deboli, impotenti, mentre gli insegnanti che non lo stimano sono forti e hanno ragione. Significa per lui che la sua vita è segnata a 6 anni. Così Giordano Bruno Guerri, che quindi giudica un orrore questa idea. Mentre, per esempio, Maria Giovanna Maglie, su Libero, scrive: è sacrosanto bocciare chi non sa anche in prima elementare. Respinti 5 alunni, e Maria Giovanna Maglia scrive: viene in mente a qualcuno che la promozione coatta di 5 bambini che non sono in grado di leggere e scrivere sia forse una crudeltà maggiore, una scelta vile che li consegna frustrazione, senso di inferiorità, e che se sono stranieri fingere che possano stare coi madrelingua italiani e chiamarla solidarietà accoglienza sia ancora più sbagliato? Viene in mente a qualcuno che la scuola non è un pronto soccorso ma un luogo di istruzione e formazione? E che se ai cittadini italiani si comincia da lì, dall'inizio, a far credere che la società è una mucca da mungere, che ci deve assolvere, assistere in tutto, poi finisce non solo con i bamboccioni, ma con la tragedia economica e civile nella quale ci troviamo oggi immersi, ma che mi daranno della razzista, della fascista. Amen. E insomma, il tema però è molto dibattuto dai giornali. Ovviamente il Secolo XIX ci dedica una pagina. essendo diffuso come quotidiano da quelle parti, bocciati nelle classi pollaio. Ecco, vengono definite le classi pollaio. Ci sono, c'è chi manifesta sdegno, i genitori, alcuni minacciano una class action, ricorsi ovviamente al tribunale, ma al di là c'è un fatto di cronaca, diciamo, è un fatto di pedagogia che può portare a delle riflessioni, quelle che hanno fatto appunto per esempio Giordano Bruno Guerri e Maria Giovanna Maglia sul Giornale Libero, sul fatto se sia davvero una scuola giusta o no, una scuola che boccia con un ceffone, evidentemente è così, un ceffone virtuale che rimane a marchiare effettivamente per sempre la vita di un bambino a 6 anni. Ci sentiamo tra 5 minuti. 24 mattino. Le 7:35, i giornali aprono quasi tutti sulla situazione finanziaria mondiale, europea in particolare, per capire cosa sta succedendo. La domanda che tutti si pongono, e se lo pongono anche non solo gli italiani, se lo pongono anche al governo, se lo pongono tutti gli analisti, è: dopo l'Irlanda, dopo la Grecia, dopo il Portogallo, ora il salvataggio della Spagna, toccherà a noi? Tocca all'Italia? Siamo i prossimi, come il Wall Street Journal ha evocato e ha ipotizzato? Ebbene, la situazione è davvero una situazione di stare sul filo, sospesi, in bilico. Anche ieri è la giornata delle borse, potete leggere a pagina 3 del Sole 24 Ore: salvata Madrid, crolla Piazza Affari. Maximiliano Cellino e Andrea Franceschi raccontano la perdita del 2,79% di Milano, l'euforia dei mercati per il salvataggio delle banche spagnole che si è sciolta nello spazio di un mattino. Era successo anche con Grecia, Irlanda, Portogallo, lo scenario era sempre quello: acquisti immediati, successiva disillusione da parte degli operatori nel giro di 2 ore, cioè l'annuncio del salvataggio, dunque le borse, in questo caso di Madrid, ieri che aprono bene, poi nel giro di 2 ore, flop, crolla tutto, l'illusione, e ora tornano i dubbi, e quello che leggerete è soprattutto l'effetto contagio, il timore del contagio. Ora, ieri Palazzo Chigi, come racconta Dino Pesole a pagina 5, ha detto no ad allarmismi ingiustificati, nessun allarme, gli attacchi all'Italia sono mere forzature. Così Palazzo Chigi ha respinto i timori arrivati dalle banche tedesche e dalla stampa americana, appunto dal Wall Street Journal, ma anche dal New York Times, articoli che non sono proprio piaciuti. E così dall'entourage di Monti si sottolinea come il premier sia oggi più che mai determinato e credibile nel suo ruolo di mediazione tra le diverse posizioni in campo in Europa e di sponda per gli stessi Stati Uniti di Obama. Certo, però, il timore è davvero che il rischio contagio arrivi anche da noi, tanto che a fronte del no allarmi, il retroscena invece raccontato per esempio da Repubblica, da Alberto D'Argenio e Carmelo Lopapa in prima pagina, racconta invece di un Monti che avrebbe detto questa frase: facciamo attenzione perché con quello che è successo alla Spagna abbiamo tutti gli occhi puntati addosso. La frase che il premier Monti pronuncia nel pomeriggio davanti ai sindaci dell'ANCI descrive l'atmosfera che si vive tra Palazzo Chigi e il Tesoro. È l'ennesimo lunedì nero, con Piazza Affari che crolla, lo spread che torna a 470 punti, la sensazione che la speculazione sia tornata a colpire l'Italia. A questo punto, che fare? E racconta Repubblica, scontato per esempio il ritocco di 2 punti dell'IVA in autunno. Eccolo là, l'aumento delle tasse. E intanto, ripeto, il titolo che oggi troverete in prima pagina del Sole 24 Ore è un titolo certo che farà discutere, perché a tutta pagina c'è la foto di Angela Merkel con un titolo in tedesco: Schnell, Frau Merkel, cioè faccia presto, signora Merkel. È l'editoriale del direttore Roberto Napoletano, che proprio è un invito alla cancelliera tedesca di fare qualcosa. Prima è toccato alla Grecia, poi all'Irlanda, al Portogallo, puntuale è arrivata la volta della Spagna. Tocchiamo ferro per l'Italia, scrive Napoletano. Si può sostenere con un minimo di ragionevolezza che l'Europa esiste e si consente ai mercati di attaccare e colpire impunemente un paese dietro l'altro? La risposta è no. Signora Merkel, così non può andare avanti. E Napoletano suggerisce 3 immediate operazioni da fare: 1. Garanzia unica per i depositi bancari europei. A chi solleva problemi morali non del tutto infondati sulla sua introduzione va spiegato che in assenza di questo strumento rischia di pagare di più anche chi si è comportato bene. 2. Accesso diretto al fondo salva stati da parte degli istituti di credito. 3. Unificazione dei debiti pubblici europei distinguendo paese per paese il carico degli interessi ma neutralizzando così l'azione della speculazione sui tassi dei titoli sovrani dei paesi del sud Europa e non solo, che si è rivelata molto onerosa. Questo terzo punto è il più complicato, dice e scrive Napoletano. Questo serve subito, serve all'Europa, serve alla Germania. Tocca alla cancelliera Merkel recuperare la forza politica dei padri fondatori, portare a compimento il disegno di Helmut Kohl. Accolga le buone istanze per la crescita di America e Cina e ne respinga con fermezza le simpatie interessate. Faccia presto, signora Merkel. Questa è la conclusione e l'invito esplicito a fare appunto in fretta per salvare l'euro e costruire l'Europa politica. Questo in prima pagina del Sole 24 Ore. La situazione davvero è una situazione delicata. Certo, venendo in Italia c'è il balletto. Come definireste voi il balletto sulle cifre degli esodati in Italia? Gli esodati, cioè coloro che hanno firmato un accordo con le loro aziende per andare prima in pensione e ora si trovano in una terra di nessuno perché non sono coperti, non ci sono i soldi e per cui si trovano senza lavoro e in attesa di andare in pensione, chi di un anno, chi di 2 anni, chi di 3 anni, chi di chissà quanti anni, e si trovano dunque senza stipendio e senza pensione perché non ci sono i soldi. E ieri è uscita questa cifra dell'INPS: gli esodati sono più di 390.000. Ma come? È stato fatto un decreto dal ministro Fornero per coprire circa 65.000 esodati, salvaguardati anzi, adesso li hanno chiamati così, salvaguardati dal decreto. Per gli altri si farà qualcos'altro, ma non ci sono. Ma gli altri sono la differenza tra 390.000 e 65.000, fate voi la differenza perché a quest'ora con la matematica farei dei disastri. Ebbene, ieri c'è stato questo giallo alle 4 del pomeriggio, appunto l'INPS ha dato questa cifra. Il ministro Fornero ha convocato subito i vertici dell'INPS, ha fatto un comunicato in serata molto molto duro, ha parlato di disapprovazione, deplorato la parziale non ufficiale diffusione di informazioni che ha provocato disagio sociale, cioè una Fornero infuriata nei confronti dei vertici dell'INPS che hanno dato questa cifra. Una nuova stima, poi la precisazione è stata che 65.000 sono i salvaguardati, le accuse appunto tra il ministro e i vertici dell'ente. Sta di fatto che ovviamente molti giornali ci sguazzano e per esempio il Fatto Quotidiano titola in prima pagina: gli esodati sono 390.000 perché la Fornero ha mentito, oppure l'Unità, esodati, la bugia di Fornero. Ovviamente prendono la palla al balzo anche i sindacati. Per esempio la leader CGIL Susanna Camusso fa oggi 2 interviste, una a Repubblica, Roberto Mania, pagina 7, pronti anche allo sciopero, ci vuole una via d'uscita che sia uguale per tutti. Intanto Camusso, dopo essere stata accusata di avere attaccato anche personalmente in passato il ministro Fornero, dice: ora non voglio farne un caso personale. Non dico che debba dimettersi, il problema non è quello di un singolo ministro, il problema è che questo governo si ostina a pensare che il suo scopo sia quello di tagliare. E poi sulla vicenda esodati, l'INPS maneggia risorse che forse sono superiori al bilancio dello Stato e non ha fatto bene il suo mestiere. Io chiedo una riforma dell'INPS, una governance efficiente e trasparente. Riguardo agli esodati, si ostina la Fornero a pensare che di volta in volta, sulla base delle risorse disponibili, troverà una via d'uscita, ma non si fa così. Che fanno nel frattempo quei lavoratori? Muoiono d'ansia? Ci vuole una norma generale, una clausola di salvaguardia che stabilisca il seguente principio: a tutti coloro che si trovano nelle condizioni di esodati si applicano le leggi previdenziali precedenti alla riforma. Punto. bisogna rovesciare l'approccio. E poi non esclude lo sciopero, fa anche un'intervista anche all'Unità dove ribadisce questi concetti, intervistata Susanna Camusso, la trovate anche sull'Unità, pagina 2-3, responsabilità anche di Monti, deve trovare i soldi, cioè bisogna trovare i soldi per coprire ora tutti gli esodati. Anche Raffaele Bonanni sul Messaggero, vogliamo subito un chiarimento con Monti, intervistato da Luciano Costantini a pagina 4, dice bisogna trovare subito. Subito questi soldi, sabato prossimo saremo in piazza Roma anche per questo, anche per gli esodati. Intanto qui siamo partiti dai tagli che non si fanno o annunciati come quelli dei deputati regionali della Sicilia, i tagli che forse si faranno in quella che è la spending review, la revisione della spesa. Insomma, si taglieranno. Oggi c'è l'ennesimo incontro, noi ne parleremo alle 8.30. Dove tagliereste voi, cari italiani? Il Parlamento, anche se il Parlamento è fuori dalla spending review, forse in questo caso verrebbe da spezzare una lancia per il Parlamento. So che sto dicendo una follia. Altro che casta. Lì almeno si sono tagliati 150 milioni. Si fanno la mensa aziendale invece del ristorante. Lo chiederemo al questore Mazzocchi. Insomma, tocca... Vedendo quello che succede con la spending review, che io definisco supercazzola su Twitter, vabbè, ormai chi mi segue su Twitter lo sa, sembra davvero che bisogna rivalutare il sano principio di tagli che stanno facendo in Parlamento, perché nello Stato, nella spesa pubblica, non si sa che cosa si stia facendo. Anzi, a proposito di spesa pubblica, sappiate che cresce di 40.000 euro al minuto. 662 euro ogni secondo che passa. Eccolo qui, 662 euro, 662 euro, 662 euro. Ogni secondo la spesa pubblica italiana cresce di 662 euro. Sentiamo le informazioni sul traffico, in questo minuto quindi crescerà di 40.000 euro. Tra un minuto avremo una spesa pubblica di 40.000 euro più alta. Ecco qua, è passato un minuto e la spesa pubblica è aumentata di 40.000 euro dall'inizio degli aggiornamenti sul traffico. E questo è il dato di fatto. Sul Corriere della Sera oggi, Sergio Rizzo, la corsa della spesa pubblica cresce di 40.000 euro al minuto. Questo è lo Stato italiano in questo momento. Siamo i più lenti in tutto tra i paesi europei, siamo invece imbattibili per velocità quando si tratta di spendere denari dei contribuenti. La Commissione europea dice che tra il 2000 e il 2012 la spesa pubblica italiana è aumentata di 250,7 miliardi. Calcoli della Confartigianato al ritmo di 2.384.000 euro all'ora, ovvero quasi 40.000 euro al minuto, ecco appunto, 662 euro ogni secondo che passa. Tutto questo ovviamente compresi gli interessi che l'Italia paga sul terzo debito pubblico al mondo, ma che influiscono fino a un certo punto. Ed eccola qui, l'analisi della spesa pubblica, gli sprechi. Volete sapere gli sprechi? Al Sud, Confartigianato, verrà presentato oggi un dettagliato rapporto messo a punto in vista dell'assemblea dell'organizzazione. Fenomeno pazzesco, racconta lo stesso Sergio Rizzo. Su 100 occupati nel settore agricolo, 100 occupati, 60,9 hanno un trattamento di disoccupazione in Italia. Nel sud sono 97,5. Cioè, avete capito bene? Significa che pressoché tutti i lavoratori agricoli del Mezzogiorno percepiscono un sussidio spettante a chi resta senza lavoro. Nelle regioni meridionali ci sono 67,8 disoccupati maschi, i sussidi erogati alle donne sono addirittura 164 ogni 100 lavoratrici. 164, mistero, cioè su 100 lavoratrici 164 sussidi, mistero della statistica, dice lo stesso Sergio Rizzo. Forse non si fa riferimento a persone in carne e ossa, ma a unità di lavoro teoriche occupate tutto l'anno, ma questo è un problema che riguarda l'intero paese. La media italiana è di 104,7 trattamenti di disoccupazione per ogni 100 donne impiegate in agricoltura. Cioè ci sono 100 donne impiegate in agricoltura, 104 sussidi. misteri veramente della statistica italiana. Vabbè, parleremo poi di spending review più avanti, di revisione della spesa con questo dato, ricordate, 40.000 euro al minuto, quando riprenderemo a parlare alle 8.30 saranno passati 40 minuti, quindi 40 minuti per 40.000 euro. Intanto chiude il ristorante della Camera, Mario Aiello sul Messaggero torna a parlarne a pagina 9, poche reazioni dei politici. Io vorrei andare a raccontarvi quello che è successo in Gran Bretagna. Si può essere distratti? Sì. Tu, Peter, sei distratto, ogni tanto dimentichi a casa la penna, non la penna nera, la penna per scrivere. Quella c'è sempre, la penna nera. Cosa dimentichi di solito? Le chiavi della macchina quando scendi giù, chiavi di casa, no? Classiche cose. Io l'altro giorno ho dimenticato le chiavi di casa a casa di mia mamma. Sono cose che sono arrivato a casa, non avevo le chiavi di casa. Il premier britannico ha dimenticato la figlia al pub. Il premier David Cameron e la moglie hanno, peraltro due genitori modello, pensate che quando è nato un figlio Cameron ha chiesto una licenza dal governo per stare con suo figlio. Il premier David Cameron, premier britannico, è andato al pub, una colazione con amici, la moglie, vari figli, non so quanti ne abbia, 3, 4, sono usciti dal pub, sono saliti su due macchine diverse, lui e la moglie, e Nancy 8 anni, avranno pensato, il padre ha pensato, vabbè, Nancy sarà sulla macchina con mia moglie, la moglie avrà pensato, Nancy sarà sulla macchina con gli altri figli, con mio marito. Risultato, sono andati a casa e la figlia l'hanno dimenticata al pub. Ora c'è chi fa notare che la notizia è stata data dal Sun di Rupert Murdoch, quindi una vendetta del tabloid di Murdoch. La notizia è vera, è successo 2 mesi fa, è stata tenuta nascosta, ma il premier distratto dimentica la figlia al pub. Così sul Secolo XIX, pagina 11, ma anche il Corriere, pagina 21, Cameron, un papà distratto, dimentica la figlia al pub. Come può succedere, insomma, la distrazione? Lui e la moglie se ne accorgono dopo il rientro a casa. E anche pagina 17 della Stampa, così papà Cameron si scordò la figlia al pub 2 mesi fa. Lui e la moglie erano su due auto diverse, da qui l'inghippo. A proposito di inghippi e questioni, invece è successo, giusto per concludere, una vicenda un po' più torbida e inquietante negli Stati Uniti. Ne raccontano il Corriere della Sera, pagina 19, poi l'ho visto anche su qualche altro giornale, forse Repubblica, lo strano incidente del ministro americano. C'è un ministro americano, tra l'altro il ministro del commercio degli Stati Uniti, John Bryson, ha fatto una roba strana, ha fatto un incidente, ha tamponato una macchina, si è fermato, è sceso, ha discusso con i 3 occupanti dell'altra vettura, poi è ripartito, ha colpito un'altra macchina, nel frattempo è stata chiamata la polizia, poi è finito fuori strada. Sembrava una storia banale di un pirata della strada, probabilmente ubriaco, drogato, sbronzo, non si sa. E invece è la vicenda che ha coinvolto un ministro del commercio americano. Lo strano incidente del ministro USA, si scontra con 2 auto, scappa, lo trovano svenuto, hanno detto è un malore, ma in realtà non si capisce bene, l'hanno definito seizure, cioè una sorta di colpo apoplettico, ischemia cerebrale, ma un qualcosa che sta imbarazzando la Casa Bianca, vai a vedere che era sbronzo o non si sa. La vicenda, insomma, del segretario al commercio di Obama, che era senza scorta sabato sera e sta creando imbarazzo alla Casa Bianca. Pagina 19 del Corriere della Sera. Non dico niente sul fatto che il Milan sta per vendere, ormai certo, Thiago Silva al Paris Saint-Germain, quando quello da mandare via era chiaramente Ibrahimovic. Non dico niente, per carità di patria, perché sennò mi aspettano qua fuori con la polizia per portarmi via con le manette. Il giornale radio. Mattino. Siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, abbiamo scoperto oggi dal Corriere della Sera che la spesa pubblica cresce di 40.000 euro al minuto. Sono 662 euro ogni secondo che Dio manda in terra. Si può in questa situazione sprecare denaro pubblico ancora? Revisione della spesa, spending review, si possono buttare via, come è successo, almeno leggo da titoli di giornali, 36 milioni di euro per un aeroporto che non apre, che è lì e che non si apre. Voglio salutare Giuseppe Di Giacomo, buongiorno e benvenuto Di Giacomo. Buongiorno a lei. Lei è deputato regionale siciliano, anzi onorevole, insomma, perché l'Assemblea regionale siciliana, siete onorevoli, e ex sindaco di Comiso. Lei sta protestando da tempo, credo minacciando anche una occupazione dell'aeroporto di Fiumicino per la vicenda dell'aeroporto di Comiso che non apre. Comiso che non apre, occupiamo Fiumicino. È un contrappasso per contrasto, ce lo dice no così fase, occupiamo no fase vanno a bloccare i lavori in Piemonte e noi andiamo a occupare Fiumicino per aprire Comiso. E quando lo occupate Fiumicino? Giorno 30 giugno. Il 30 giugno, cioè volete, sì, occupare Fiumicino, ma sì. Perché? Cioè, per questo contrappasso, perché che succede a Comiso? È vero che sono stati buttati via 36 milioni di euro? Un po' di più. 41 milioni sono serviti per costruire Comiso, l'aeroporto di Comiso, un aeroporto di secondo livello omologo a quello di Catania, 21 milioni ha investito la società di gestione privatizzata, ben capitalizzata, pronta a farlo partire, 4 milioni e mezzo ha messo la regione per agevolare lo start-up dell'aeroporto, quindi siamo già a 65-66 milioni e Comiso rimane chiuso. Rimane chiuso. Le cito una dichiarazione che lei ricorderà bene, perché da sindaco di Comiso accolse il ministro degli esteri Massimo D'Alema, di allora, era il primo maggio credo del 2007. Era il 30 aprile. Il 30 aprile. Sa perché me lo ricordo molto bene? Perché? Perché allora ci fu l'intitolazione dell'aeroporto a Pio La Torre, martire della mafia, sì, ed era proprio il diciamo 25 anni. Ah, perfetto. Disse Massimo D'Alema, da qui partiranno i pomodori di Pachino e qui arriveranno i turisti stranieri innamorati del Ragusashire. Così Massimo D'Alema nel 2007... risultato, siamo nel 2012, l'aeroporto è ancora chiuso. L'aeroporto è ancora chiuso, ma le devo dire che uno studio di business plan anche abbastanza autorevole conferma tutto questo. Se apriamo Comiso in 2 anni arrivano 1,5 milioni di passeggeri con 2 vettori soltanto e avremo un incremento del prodotto interno lordo in questa parte della Sicilia di 1 miliardo di euro. Ecco, questo è il punto, onorevole, però mi scusi, perché molti arrivano a pensare, ma serve davvero un aeroporto a Comiso? Cioè lei mi sta dicendo che arrivano tutti a Comiso, e perché? Perché quella parte della Sicilia è poco servita da un aeroporto? Perché, cioè, non è il caso di chiuderlo? Proprio di non... Allora, non è stato un errore riconvertirlo e poi non aprirlo mai? Fosse stato un errore, non sarebbero previsti 1,5 milioni di passeggeri in 3 anni. Lei deve valutare che la zona dove di riferimento della quale stiamo parlando è intanto la zona dove credo ci sia la più alta concentrazione di siti patrimonio dell'UNESCO d'Italia. Le ricordo la Gura Idla, Modica, Noto, Pantalica. Arriva a distanza di qualche chilometro. Ma uno arriva a Catania oppure arriva a Palermo e si fa il giro della Sicilia, che è una terra straordinaria. Se ne vede. Io la inviterei però a venire a Palermo o a Catania e trasferirsi in questa zona qui. Vi assicuro che è un'esperienza da esaurimento nervoso, diciamo. Purtroppo il sistema dei collegamenti rende impossibile un attraversamento agevole di quest'isola continente e i turisti non vogliono sopportare questo tipo di disagi. Quindi vogliono l'aeroporto, li vogliono. Paradossalmente l'aeroporto facilita tutto questo, diciamo. Insomma, perché ci sono due teorie. Lei giustamente dice è uno spreco di 60 milioni di euro aver fatto convertire un aeroporto che c'era già, ricordiamo, Comiso era un aeroporto militare, non è che è stato costruito apposta. No, devo rettificare. Era un aeroporto militare sulla carta. Sì. Dopo l'insediamento della base NATO era un campo di magesi, ormai la pista non esisteva più. Sì, però dico, non è che l'abbiamo costruito dal nulla, perché molti accusano di è stato uno spreco costruire l'aeroporto di Comiso, ma l'aeroporto di Comiso ha una storia anche abbastanza lunga. Per molti italiani forse non c'è bisogno di un aeroporto in questi momenti in cui bisogna tirare la cinghia. Forse no, non è chiaro un passaggio. L'aeroporto di Comiso è costruito, pronto, chiavi in mano, con una società privatizzata. Ma poi costa... Non siamo più in una fase decisionale o di valutare le opportunità o meno. Dobbiamo aprire questo aeroporto e vedere se le previsioni sono azzeccate oppure no. Però, onorevole, aprire un aeroporto... Noi perdiamo 1 miliardo di euro l'anno. Ma aprire un aeroporto, lei dice arrivano 1 milione rotti di visitatori, però aprire un aeroporto, se poi si rivela un flop di costi, cosa facciamo? Cioè, se quelle previsioni di turisti non arrivano, che facciamo? Allora, la società di gestione che ha vinto la gara quarantennale sul piano europeo, quindi con procedure di evidenza pubblica, è ben capitalizzata con le proprie risorse, con le proprie capitali privati per assorbire eventuali perdite. Quindi noi dobbiamo mettere Comiso sul mercato e non discutere sul senso degli angeli. Comiso non peserà 1 euro sul bilancio dello Stato perché è già pronto, chiavi in mano, ha una società ben capitalizzata per farla partire. Quindi usciamo fuori dalla sfera di cristallo delle previsioni, mettiamolo sul mercato e vediamo se abbiamo ragione noi o hanno ragione i profeti di sventura. Io dico che abbiamo ragione noi, del resto che facciamo? Lo teniamo chiuso, lo bruciamo, lo buttiamo, che facciamo? Intanto i pomodori di Pachino, ma quella dichiarazione di D'Alema lei come la legge oggi? Ragusa Shire, sai che c'è stata l'epoca del Chianti Shire, adesso voleva Ragusa Shire, tutti ma, i turisti... Ma arriva... Ragusa Shire, guardi che sta avvenendo, lei non ha l'idea, proprio per le ragioni che le dicevo, noi siamo l'epicentro del... maggiore della maggiore concentrazione di siti patrimonio dell'UNESCO d'Italia, ma ci sono tantissimi investitori inglesi, francesi, olandesi. Quindi vede che la gente arriva, la gente arriva, no, nonostante non ci sia l'aeroporto a Comiso, magari con un po' più di fatica. 700.000 all'anno, non sono grandissimi numeri. Se noi valutiamo, abbiamo avuto una punta di 900.000 nel 2007, poi c'è stata la crisi, ma siamo a 700.000. È facile immaginare, sa, noi siamo a 2 passi dalle spiagge di Montalbano, è facile immaginare che chiunque voglia venire qui, insomma, a passare un weekend a vedere queste bellezze barocche straordinarie, a godere della nostra enogastronomia. E quindi le previsioni non sono velleitarie, non sono ottimistiche, ma sono delle realistiche, e che lo faccia comodamente, cioè atterrando a Comiso. Senta, intanto io la ringrazio, onorevole, per essere stato con noi. Il 30 giugno, ma chi, quando dice cinque andiamo, occupiamo Fiumicino, chi siete? Chi, lei? Ovviamente saremo un manipolo, io spero, insomma, che saremo un manipolo abbastanza ampio, poco più che un manipolo, potremmo essere una folla, una piccola folla. Il punto è che sarà ovviamente una manifestazione pacifica, già che noi siamo pacifisti convinti, non vogliamo arrecare danni, però deve essere chiaro che l'aeroporto di Comiso deve essere aperto perché è la più grande porta euro-mediterranea d'Italia, diciamo. Nella Sicilia sud-orientale, cioè vicino a Ragusa. E va bene, il 30 giugno, ma senta, occuperete la pista? No, non lo sapete, la pista? No, l'aerostazione, tutti a Fiumicino. Va bene, intanto la ringrazio, buona giornata. A voi, buona giornata. Giuseppe Di Giacomo, che è deputato regionale dell'Assemblea regionale siciliana del Partito Democratico, ex sindaco di Comiso in provincia di Ragusa, dove c'è un aeroporto che non si apre, con spreco di 60 milioni di euro. Intanto sono passati in questa intervista 6 minuti, 6 per 4, 24, quant'è che è? 40.000 euro al minuto. Fammi il calcolo, Diego Rovelli, che io in matematica... Vabbè, fate 40.000 euro per 6 minuti, aggiungete, sicuramente sbaglio lo zero se lo dico. So che 6 per 4 fa 24, questo sono abbastanza certo. E questo è l'aumento della spesa pubblica in questi 6 minuti. Intanto adesso ci sono quanti? 5 minuti di pubblicità, e quindi 5 per 4, 20. Quanti sono? 2 milioni la spesa pubblica. C'è chi dice 200 milioni. Facciamo il calcolo con la calcolatrice, tra poco. 24 mattino. Va bene, tutti a fare i brillantoni. La matematica per me è un'opinione. E con i messaggi al 349-238-6666, tutti a fare i brillantoni, nel comodo delle vostre macchine, a fare i calcoli tranquilli. Ebbene sì, allora. Lo so anch'io adesso che ho preso calcolatrice alla mano. In questi 5 minuti di pubblicità la spesa pubblica è aumentata di 200.000 euro, 40.000 euro al minuto. La spesa pubblica italiana, 662 euro ogni secondo che passa. Così oggi un dossier della Confartigianato, anticipato dal Corriere della Sera con Sergio Rizzo, dà questi dati sconvolgenti. Allora, in questi dati e con questi dati si può ancora sprecare denaro pubblico? Si chiama spending review o revisione della spesa, quello che anche oggi avrà un passo importante, si vedranno il supercommissario Bondi, i ministri, il premier Monti, per cercare di capire dove tagliare. Dove tagliereste, cari italiani? 800240024. Intanto voglio salutare Mario Sensini, collega del Corriere della Sera, che saluto. Buongiorno Mario e benvenuto. Buongiorno. Saluto anche il deputato Antonio Mazzocchi, uno dei questori della Camera del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole Mazzocchi. Ben ritrovato. Allora, intanto c'è da dire che la spending review non riguarda di per sé il Parlamento, che ha la sua autonomia, l'abbiamo detto tante volte, ma non è il caso di ribadirlo sempre. Però abbiamo letto questa notizia per cui voi vi tagliate 150 milioni di euro, più o meno? Anche se non riguarda, come lei giustamente ha sottolineato, gli organi istituzionali, noi riteniamo di dare un esempio di tagliare in tre anni, o meglio di restituire allo Stato in tre anni 150 milioni di euro. 150 milioni. Questi 150, cioè questi 50 milioni di euro all'anno verranno suddivisi, 30 milioni saranno presi dalla cassa di solidarietà dal fondo di solidarietà dei deputati e 20 milioni saranno presi dalla diminuzione dei contributi dei gruppi e dai risparmi che credo che si possano fare nell'ambito dell'amministrazione, soprattutto cercando sempre più di rendere tecnici alcuni servizi attraverso l'informatica, risparmiando così moltissimo sulla carta, come si deve risparmiare anche sull'autoparco, diminuendo sempre più le autovetture. Quindi 50 milioni all'anno che verranno tolti. Ovviamente in questi 50 milioni c'è anche quello che ha preso un po' le prime pagine dei giornali, no? Ieri il Messaggero, l'ha vista anche lei, la chiusura del ristorante della Camera, sì, che ha dato sfoggio e ha permesso a giornalisti di esercitarsi in articoli, no? Sugli onorevoli forchettoni, magna. Ne usufruivano pure però, ne usufruivano pure. Andavano a mangiare poi l'onorevole magna ne parlavano. Perché questa cosa? Ce la spiega? Ma guardi, diventerà una mensa. È stata una mia idea che da tre anni sto portando avanti, finalmente poi è passata all'unanimità nel collegio dei questori, cioè trasformare il ristorante in un self-service, così come avviene a Bruxelles, come avviene nella regione Lazio, come avviene in molti anche altri paesi d'Europa. C'è un self-service dove ognuno paga, non più paga la Camera il contributo, ma ognuno, dal deputato al giornalista al dipendente, pagano di tasca propria. E il self-service è fatto con tre primi piatti, tre secondi piatti e dei contorni e frutta. Questo sempre è chiaro nella scelta di uno dei tre. Certo. A spesa 12 euro? 12 euro questo. Ma credo di sì, ma anche di meno, perché tenga presente poi che oggi le abitudini alimentari sono cambiate, per cui 12 euro consideriamo il pasto completo, ma se lei dà al privato tutta la gestione, oggi come oggi vediamo che molti di noi, compreso il sottoscritto, che casomai si mangia un'insalata o si mangia un primo piatto e una frutta, allora non paga 12 euro ma andrebbe a pagare quei 4-5 euro. E questo è un grande risparmio per la Camera, perché lei consideri che soltanto la Camera, attraverso i contributi che doveva dare a queste ditte che vincevano gli appalti, ogni anno ci rimetteva dai 3 milioni ai 3 milioni e mezzo. Infatti, perché la domanda è questa, onorevole Mazzocchi: costa 12 euro al deputato, ma 12 euro, cioè con questo costo paghiamo anche il costo delle materie prime e tutto, cioè non è che dobbiamo mettere... Cioè noi diamo attraverso una gara europea, che bisognerà fare, perché come lei sa la normativa europea ci impone di fare una gara europea, noi diamo al privato la concessione di questo servizio di self-service, e il privato fa il prezzo, e il prezzo lo paga direttamente sia il parlamentare che il giornalista che il dipendente. Cioè la Camera non mette più una lira di contributo. No, io su questo, Mario Sensini, l'abbiamo letta ieri, 150 milioni di tagli della Camera. Ora dirò quella che può essere apparire una bestialità, noi seguiamo anche i costi della cosiddetta casta, ma in questa paralisi invece di quello che è la spending review fino a questo momento, tocca dare quasi ragione alla Camera, a dire almeno loro qualche taglio se lo stanno facendo. So che adesso mi riverseranno di insulti, di improperi, di messaggi a dire: ma come difendi la casta? Però Mario Sensini, che sta facendo invece l'amministrazione centrale, lo Stato, il super commissario Bondi sulla spending review? Studiano. Eh sì, è una roba complicata, sta spending review, molto più di quello che, diciamo, noi, i cittadini normali, possono pensare. Perché andare a mettere le mani sul nostro bilancio è composto da 120.000 voci, alle quali corrispondono 120.000 leggi di spesa. Andare a mettere le mani lì dentro per capire che cos'è ancora, diciamo, indispensabile, utile finanziare e che cosa invece sarebbe opportuno tagliare, non è un lavoretto che si fa in 15 giorni. A me mi ha un po' sorpreso l'ottimismo e l'enfasi con cui il governo ha annunciato questa manovra. In realtà è un'operazione fondamentale, ma richiede un lavoro immenso. Porterà frutti tra 2, 3, 4 anni, solo alla lunga, perché premesso che è un lavoro tecnico molto difficile, la spending review comporta anche una decisione, delle decisioni politiche molto importanti, fondamentali, perché cambia un po' la logica del sistema. Se hai un minuto te la spiego, perché è molto semplice. Fino a oggi il bilancio si costruiva in questo modo: quanto spendere in più o in meno rispetto a una certa voce di spesa che esiste. Che ti posso dire? Gli aiuti alle, per, diciamo, alle imprese oppure alle famiglie. Si stabilisce quanto ne è, 1 miliardo in più, 1 miliardo in meno, lo spostiamo di qua di là. No, si ricambia tutto, si parte da una regola nuova che è lo zero budgeting. Si decide gli aiuti alle famiglie, li vogliamo dare ancora o no? E non quanto? Di più o di meno. Certo, non li di più o di meno rispetto all'anno scorso, ma servono o non servono? E quanto servono? E allora questi soldi che togliamo magari, che ne so, alla lotta al randagismo, a Brambilla, li possiamo mettere nel sostegno agli asili nido, per dire. Allora, questa però è un'operazione che comporta una discrezionalità politica enorme, cosa che un governo tecnico come quello di Monti non è in grado di fare. Ma come? L'abbiamo, cioè, il concetto è questo, se l'abbiamo chiamato in teoria perché non rispondendo a delle logiche politiche, strettamente politiche, anche se c'è ovviamente una maggioranza politica parlamentare, aveva un po' le mani libere per poter fare queste cose, o no? Per poter mettere le mani sugli sprechi, senza dubbio, però se si tratta di decidere come allocare una grande quantità di risorse, ma su temi, diciamo, fondamentali, stiamo parlando, che ne so, di spostare qualche miliardo dalla difesa piuttosto che da altre fonti di spesa su cose che magari oggi servono di più, beh, questo capite che non è una cosa che un governo tecnico porta avanti facilmente, perché in Parlamento comunque deve rispondere a una maggioranza, una maggioranza che è comunque colorata politicamente e adeguata, che è oggi ovviamente molto ampia, ma non c'è dubbio che una determinata spesa in un certo posto piuttosto che in un altro abbia una certa, diciamo, favore o sfavore politico. Politico è questo, sì. Intanto i nostri ascoltatori via sms al 349-238-6666 ne ho raccolte alcune di parere. C'è chi dice abolire il PRA, agire sulle consulenze, tagliare gli stipendi della pubblica amministrazione che superano i 100.000 euro, tagliare, abolire le regioni a statuto speciale. C'è chi ci scrive anche chiudere l'aeroporto di Comiso mai aperto. Noi prima avevamo l'ex sindaco di Comiso che si batterà per l'apertura dell'aeroporto di Comiso, e il 30 giugno ha promesso occuperemo Fiumicino per contrappasso, visto che non mi aprono l'aeroporto a Comiso. In ogni caso andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Allora, tra l'altro 800 24 00 24, onorevole Mazzocchi, vede che poi molti ci scrivono sul tema ristorante, perché che deve fare, è quello che poi prende, cattura l'attenzione degli ascoltatori. C'è chi propone i buoni pasto, guardi le didocche. Questo radioascoltatore che ha proposto il buoni pasto non è che sbaglia, è una delle proposte che noi stiamo facendo, come in tutti i ministeri, anzi forse si risparmierebbe. Però c'è un fatto, che il monopasto, diciamolo con molta chiarezza, l'italiano, la gran parte dell'italiano non pranza, ma se lo tiene per il sabato per andare a fare la spesa al proprio supermercato. Forse anche dato la crisi economica molti richiedono questo monopasto. Io però mi volevo inserire un attimo, se lei me lo consente, nel discorso molto sensato e tra l'altro anche erudito degli Sensini, che è un esperto nella materia. Però al di là del discorso che Bondi è una persona capacissima e sicuramente porterà un risultato, però io ritengo che quando noi leggiamo sui giornali che ogni giorno un ministero ci costa un miliardo di lire, il cittadino giustamente rimane meravigliato, no? Allora io credo che immediatamente si potrebbero prendere dei provvedimenti che comunque diano un segnale che l'amministrazione vuole risparmiare. Faccio un esempio: noi abbiamo centinaia e centinaia di caserme ormai abbandonate, basterebbe vendere queste caserme. È da 30 anni, onorevole Mazzocchi, lo stesso Sergio Rizzo lo dice, è da 30 anni che si dice le caserme si vendano e poi non si vendono. Basterebbe vendere questo. No, poi quello che interessa è la funzionalità dell'amministrazione. Faccio un esempio: se vi è un ente che ha tot impiegati che sono un surplus, poiché abbiamo il blocco del turnover, fare una legge per cui si applica la mobilità da un ministero all'altro degli impiegati. Allora, sotto questo aspetto, noi possiamo risparmiare e rendere più funzionale l'amministrazione. E noi dobbiamo dare dei segnali. No, però su questo, allora, Mario Sensini, perché non si riesce a fare nulla? L'esempio della vendita delle caserme, poi si dice il ministero della difesa si è sempre messo di traverso e non se ne fa nulla. Allora, io ieri parlavo con colui che mi tiene il garage e mi dice, la pensione da 700 euro, ho chiamato l'INPS, mi hanno tolto 70 euro. E gli ho detto, che volete, vi vengo a dare qualche altra cosa? Cioè il cittadino normale vede che dei tagli sulle cose, sulle pensioni, sui piccoli risparmi avvengono in 448 e capisce che invece lo Stato non fa quasi nulla, non facciamo demagogia, ma fa fatica, oppure dice vendiamo le caserme da 30 anni e non ne ha vendute manco mezza. Perché? Cioè è così difficile, è tutta una questione di logiche politiche, Mario, da secondare? Senz'altro sì, ci sono. Questo è un paese un po' assurdo, è gattopardesco, cioè cambiare tutto per non cambiare nulla, questa è un po' la logica ispiratrice che ci manda avanti da qualche tempo, ormai qualche anno. La storia delle caserme è uno scandalo, perché era stato fatto adesso un'asta per la cessione di un bel lotto di caserme, sono veramente 30 anni che si sta aspettando questa roba, è stato inspiegabilmente tutto bloccato per non si sa quale motivo, però aspetteremo, voglio dire. Però Bondi, Bondi cosa può fare? Cioè ci sono 5 miliardi, Bondi, forse 4,2 Bondi o 5 miliardi di euro che potrebbe tagliare subito entro giugno. In cosa rimettiamo le cose in ordine. Allora, di questi 5 miliardi, 4 miliardi almeno toccano come tagli ai ministeri e sui quali Bondi non ci mette bocca, perché i ministeri sono ministeri, e quindi Bondi si occupa, diciamo, della grande partita degli acquisti della pubblica amministrazione, cioè quindi l'acquisto di beni, servizi, eccetera, quello che dovrebbe avvenire attraverso la Consip, cioè una società centrale che acquista tutto a prezzi molto buoni, che però viene utilizzata molto poco, non perché non ci sia questa voglia di sprecare soldi, anche perché se un piccolo comune del Veneto ha bisogno di comprare, che ne so, la carta igienica o le penne Bic, non le va a comprare a Roma, le compra in loco, e evidentemente lì qualche costo in più ce l'ha. Però insomma, premesso che sicuramente si concentreranno molto gli acquisti, e Bondi sta lavorando su questo per portare, diciamo, la percentuale degli acquisti della pubblica amministrazione coperta da Consip, che oggi credo sia intorno al 15%, a livelli molto più alti, quindi ci sarà un grosso risparmio. Però non bisogna farsi illusioni, perché anche quando si parla di ministeri che costano un miliardo al giorno, uno immagina che ci sia un signore dalla finestra che dà un miliardo ogni giorno. In realtà non è così. Cioè, i ministeri funzioneranno male, saranno inefficienti, probabilmente il lavoro lì non è giustamente valorizzato, quello che volete, però bene o male è fatto di cristiani come noi che lavorano, producono servizi, magari possono migliorare la qualità, però non è che si può fare tutti i giorni questo urla, ah, questi spendono un milione, un miliardo al giorno, 40.000 euro al minuto, e che diamine, cioè, non è che tutti questi soldi vanno a finire nell'immondizia, qualche modo... No, no, è chiaro, non è che spendere, allora, spendere non vuol dire buttare nel cesso, voglio dire, spendere vuol dire... Purtroppo, però, purtroppo, come vedete, come stiamo anche assistenti a questo dibattito, tutto si concentra su elementi, diciamo, logici, cioè la casta, il taglio di queste 5 lire, e di... ma non ci si arriverà mai al punto vero, cioè quello di mettere ordine nella spesa pubblica, e quello è quello che vi dicevo prima, cioè lì si tratta di mettersi a tavolino con un governo responsabile che abbia una forza politica seria alle spalle, che decide questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no, qua questi sono 10 miliardi, e questi 10 miliardi li mettiamo per ridurre. Però ci sta dicendo che per logiche politiche questo è difficile, e allora è un gatto che si morde la coda, cioè, voglio dire. Sì, però non... nello stesso tempo, se noi continuiamo a lamentare, sottolineare gli sprechi, i costi della casta, così si fa un gran lavoro. Secondo me uno dovrebbe invece in questa fase concentrarsi su un passaggio ulteriore, cioè a me fa un po' impressione le 95.000, 110.000 lettere SME o email arrivate a Palazzo Chigi a con tutti ci hanno un'idea di dove tagliare, tutti siamo allenatori della nazionale in Italia, tutti sappiamo come si fanno le cose, poi i primi a sprecare siamo noi, i primi a evadere le tasse siamo noi. Ora se si risolvesse soltanto quel problema non sarebbe mica malino, rispetto anche a quella della spesa pubblica. Allora, onorevole Mazzocchi, intanto io devo concludere, mi dice in 30 secondi questa vulgata che è stata diffusa sul fatto che vi siete fatti una leggina per cui potete aumentare il numero di assenze nelle commissioni, ma la DIA è garantita lo stesso? Guardi, io ho letto un giornale che libero, non è a conoscenza della situazione. Noi abbiamo fatto soltanto cosa, abbiamo detto, nessuna leggina è uscita, abbiamo fatto un regolamento per cui i gruppi, per motivi ben chiari, cioè che le posso dire che 5-6 persone sono malate, non possono venire perché casualmente stanno in amici all'estero, possono esonerare fino a 5 persone per la commissione. Ma avete aumentato questo numero? Cioè fino a 5, l'accusa è dire avete aumentato il numero di persone esonerabili e per questo possono prendere comunque... No, guardi, ma tenga presente che non è che lo è vita naturale durante questi vengono esonerati. Noi abbiamo fatto questa regola, cioè che ogni gruppo fino a può esonerare 4-5 persone dalle commissioni. Tenga presente, faccio un esempio, i gruppi hanno i segretari d'aula. Chi sono i segretari d'aula? Sono quelli che devono stare sempre presenti in aula. E evidentemente se sono presenti in aula non possono stare nelle commissioni, e giustamente bisogna giustificare. Certo, perché c'è il lavoro doppio. No, va bene, io vi ringrazio, mi devo fermare qui. L'onorevole Antonio Mazzocchi, uno dei questori della Camera, e Mario Sensini del Corriere della Sera. Seguiteci su Twitter @24mattino o su Facebook così. 24 mattino, a domani.